Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo già sottolineato altre volte che viviamo in questi anni quella che potrebbe essere definita l'epoca d'oro delle neuroscienze. Siamo cioè nel pieno svolgimento di un'impresa difficilissima ma grandiosa, quella di riuscire a comprendere in che modo quella massa di segnali elettrici e chimici che si scambiano continuamente i nostri neuroni nel cervello possano tradursi in sensazioni, in emozioni e al limite, quando parliamo di cervelli abbastanza evoluti, anche in pensieri. Questo scatto recente delle neuroscienze è dovuto soprattutto alla disponibilità di nuove tecnologie che permettono in varia misura di fotografare il cervello mentre è in funzione, come la tecnica di cui parliamo stasera, messa a punto da Marco Gallio, professore del Dipartimento di Neurobiologia della Northwestern University in Illinois. Buonasera Gallio. Buonasera a tutti. Allora, voi studiate il modo in cui il cervello rappresenta il mondo sensoriale. Partiamo da qui, ci spieghi un po' meglio che cosa si intende. Il cervello crea una rappresentazione del mondo esterno, no? Questo è un problema molto grande da approcciare. Quindi noi abbiamo deciso di studiare questo problema in un sistema molto più semplice, che è come il cervello di un moscerino della frutta drosophila rappresenta stimoli semplici come il caldo, il freddo, il dolce, il salato, e come questa rappresentazione viene poi processata nei comportamenti semplici che la mosca fa in reazione a questi stimoli, come decidere se una temperatura è appropriata o forse fa troppo caldo e decidere di scappare. Ecco, ma quello che voi andate a in qualche misura visualizzare di questo cervello, che altre volte abbiamo raccontato come una specie di albero di Natale dove si accende una volta una ghirlanda, una volta un'altra ghirlanda, no? È questo che andate a vedere, cosa si accende in base alle varie esperienze che ha in questo caso un moscerino. Sì, in pratica il nostro metodo di cui stiamo parlando ci permette di vedere quali connessioni tra neuroni sono attive durante una particolare esperienza sensoriale. Non deve nemmeno essere un'esperienza solo sensoriale, potrebbe essere un animale che ha paura, un animale che sta facendo altre attività, ma ci permette di illuminare i punti di contatto tra neuroni che erano attivi durante quell'esperienza in maniera persistente, perché poi possiamo leggere tramite un semplice microscopio che cosa stava succedendo nel cervello a quelle particolari connessioni tra neuroni anche un'ora o due ore prima. Ecco, e voi avete lavorato proprio, diciamo, sul composto chimico, non so come possiamo chiamarlo, che consente appunto di illuminare questi neuroni e di tenerli poi accesi per un po' di tempo anche. È questo che avete messo a punto. Questa è una proteina che ha rivoluzionato la biologia, che è stata scoperta un certo numero di anni fa in jellyfish, delle meduse. È una proteina fluorescente. Quindi, visto che le proteine sono codificate da sequenze DNA, possiamo semplicemente copiare la sequenza di DNA per quella proteina fluorescente e tramite ingegneria genetica esprimerla nelle mosche. Noi abbiamo modificato questa proteina in modo che attivi solo nei punti di connessione tra i neuroni e solo quando passano impulsi elettrici attraverso queste sinapsi. E quindi questa attivazione poi è persistente e dura per fino a 3 ore. Ecco, quindi vediamo come si svolge un tipico esperimento che secondo me ci fa mettere poi insieme anche tutte le cose che abbiamo detto. Per esempio noi studiamo, come dicevo, come ho accennato, i circuiti che processano i stimoli di temperatura caldo e freddo. Noi possiamo esprimere queste proteine, che vediamo adesso in diversi colori tra l'altro, nel circuito della temperatura, nel cervello della mosca. Possiamo poi prendere metà delle mosche e metterle in un incubatore a 15 gradi, quindi abbastanza freddo, per 10 minuti, l'altra metà in un incubatore a 30 gradi, quindi un po' più caldo, della loro temperatura preferita che è 25. E poi le tiriamo fuori, un'ora dopo possiamo con un microscopio vedere che c'è un'attività specifica che ci permette di capire quali mosche erano al caldo e quali mosche erano al freddo. In altri esperimenti possiamo mettere gli stessi proteine nei circuiti dell'olfatto, possiamo dare alle mosche per 5-10 minuti un odore di banana o un odore di gelsomino e vedere quale tipo di attività specifica viene attivata da diversi odori nel circuito dell'albero. Nel mio esempio molto grezzo dell'albero di Natale, in pratica voi riuscite a vedere che ghirlande si accendono quando fa caldo, che ghirlande si accendono quando la mosca sente freddo, oppure quando sente odore di banana, detta in modo brutale. Ecco, e se ho capito bene, adesso state anche un po' complicando l'esperimento, cioè state per esempio vedendo cosa succede se mettete una mosca in un posto freddo dove però c'è un buon profumo di banana, una cosa del genere. Perché? Sì. Una cosa che ci interessa scoprire è come il cervello della mosca processa le decisioni, quando gli stimoli sono di segno opposto, per esempio le mosche evitano il caldo molto attentamente perché potrebbero disseccarsi e morire certo. molto in fretta, sono piccoline a sangue freddo, però se c'è un buon profumo di banana sono in grado di sopprimere questo comportamento innato di scappare dal caldo e perché c'è anche del cibo, insomma. Esatto, quindi possiamo adesso vedere come questi circuiti neuronali processano queste informazioni quando sono di segno opposto. Ma che cosa possiamo imparare poi alla fine dal modo in cui pensa o si rappresenta al mondo un moscerino? Ma il cervello delle mosche è vantaggioso per studiare i circuiti sensoriali e altri circuiti del genere perché è fatto da pochi neuroni, 100.000 invece di 100 miliardi come cervello umano, è una bella differenza. E quindi è un sistema sperimentale molto buono per studiare questi semplici comportamenti innati. Grazie Marco Galli.